Letture di Radio 24. Si intitola 1861, i pittori del Risorgimento, la mostra aperta fino al 16 gennaio alle Scuderie del Quirinale, che inaugura le manifestazioni legate al bicentenario dell'Unità d'Italia. Ma come scrive oggi Luigi Mascilli Migliorini sul Sole 24 Ore, l'anno che caratterizza l'Unità d'Italia non è segnato da eventi memorabili. E mentre cadevano le ultime roccaforti della resistenza borbonica, Garibaldi pensava all'America. Sebbene esso sia l'anno ufficiale della nascita dell'Italia Unita, nessuno, neppure tra i più volenterosi e patriottici contemporanei, oserebbe sostenere che si tratti di un annus mirabilis, un anno di portenti. Nulla a che vedere, insomma, con i suoi immediati predecessori, il 1859, aperto dal grido di dolore e proseguito nelle glorie di Solferino e di San Martino, e poi il 1860, di Garibaldi, del rimpianto salotto di Nonna Speranza e della nostalgica epopea di Salvator Gotta. Ai primi giorni del 1861 appartiene una notizia inquietante che viene da lontano. Sembra, così racconta un giornale di New York, che il presidente americano Lincoln abbia proposto a Garibaldi di assumere il comando delle armate nordiste nella guerra civile che si è aperta in America. Qualche smentita di circostanza e il finale insuccesso della trattativa rimasta fino allora segreta non cancella il fatto che la lettera di Lincoln sia stata davvero scritta e che sia impensabile che l'eroe dei due mondi rimanga a lungo a imbiancare la sua casa di Caprera. Brutto segno di un paese che, ancor prima di unirsi formalmente, già perde i pezzi del suo immaginario simbolico e del suo protagonismo politico. Scontenti di Teano e di un condottiero costretto a fare il cincinnato, i democratici italiani meditano rivincite e preparano nuovi sogni. Roma innanzitutto e poi Venezia e Trieste, dove in quei giorni i deputati della Dieta provinciale hanno scritto nessuno sulle schede per i rappresentanti da inviare al Parlamento di Vienna. Da Gaeta, ai primi di febbraio, sembra venire una buona notizia. Capitola l'ultimo baluardo della resistenza borbonica, il penultimo, ad essere più esatti, dal momento che per un mese ancora si combatte davanti all'estrema fortezza settentrionale dell'antico regno napoletano, Civitella del Tronto. Sul Muet, bastimento messo a disposizione da Napoleone III, sempre più sensibile alla causa delle vecchie dinastie preunitarie, si imbarcano il triste Franceschiello e la combattiva Sofia di Baviera, leggendaria eroina dei giorni dell'assedio. Partono lasciando però uno strascico di rivalse e di rimpianti che già nell'agosto di quell'anno esplodono nei primi episodi di brigantaggio e nelle prime violente repressioni a Casalduni, a Ponte Landolfo, da parte dell'esercito di Sua Maestà Vittorio Emanuele. Gli annali di quest'anno, d'altronde, alla compassata seduta del Parlamento nazionale in cui si proclama il 17 marzo l'inizio del Regno d'Italia, preferiscono di gran lunga la burrascosa giornata del 18 aprile. Quel giorno, infatti, Garibaldi fa il suo primo ingresso alla Camera vestito della immancabile camicia rossa, sulla quale ha gettato, con gesto di ostentato distacco dalle sintassi ufficiali della nuova, in Italia, in redingote, un vecchio poncio sudamericano. Il profeta, insomma, un attore, dice qualcuno più maliziosamente, di un'altra Italia già messa ai margini della storia della nazione, come egli rinfaccia apertamente a Cavour nel tumulto dell'aula e tra le proteste violente del suo avversario di sempre. Mentre in Parlamento si litiga, nasce il Gran Libro del Debito Pubblico, parola sontuosa e minacciosa, dietro il quale si nasconde un deficit di 2.450 milioni per l'anno 1861. La pressione fiscale è al 17%, non molto, anzi pochissimo, se si guarda con gli occhi dell'anno di grazia 2010. Ma siamo appunto nel 1861 e qualcuno sulla stampa osserva che si tratta della tassazione più pesante in Europa. Serve, si replica, per colmare il divario che separa l'Italia appena nata dalle nazioni più progredite del continente, quelle che l'industrializzazione l'hanno avviata già da parecchio tempo e corrono tanto più veloci di noi. Bisogna, insomma, infrastrutturare il paese, costruire strade e ferrovie che mancano un po' dappertutto. Si inaugura ai primi di novembre la Bologna-Ancona. è la prima linea ferroviaria che prova ad affacciarsi sull'Adriatico, avviando quel progetto di un grande asse portante da Milano a Napoli, al quale devono via via aggraffarsi le direttrici rivolte ai porti dei due grandi mari, che rimangono sempre, anche 100 anni dopo, al completamento dell'autostrada del Sole, la bella incompiuta di una penisola assai più accidentata di quanto avessero, forse, immaginato i fiduciosi ingegneri del Nuovo Regno. Intanto Torino e Milano provano ad ampliare e rinnovare, con appositi disegni urbanistici, la viabilità cittadina. Non sono ancora le vie corrusche di rotaie, che canterà perplesso Guido Gozzano negli anni della prima industrializzazione, ma è il timido affacciarsi di una giovane nazione e delle sue vecchie, nuove capitali allo struggle for life del capitalismo di secondo Ottocento. Muore il 6 giugno, quasi dividendo a metà il tormentato 1861, Camillo Cavour, e invece di andare avanti, sembra che il passato voglia prendersi una singolare rivincita. Al governo è chiamato Bettino Ricasoli, il barone di ferro, un uomo del Medioevo, scrivono i giornali di parte avversa, pensando alla rigidità del carattere e al profilo di antica nobiltà cavalleresca. Il suo castello a Brolio, nel cuore del Chianti più antico, è fortezza austera che pare riportare indietro di secoli l'immagine di un'Italia lanciata verso la modernità politica ed economica. È qualcosa di più della prosa che si sostituisce alla poesia, come dirà Croce, pensando alla fine, allora, dei sogni risorgimentali. È il passato che non passa, l'Italia della tradizione che resiste e si impone sulle esperienze più generose. Lo aveva capito Ippolito Nievo, ma la sua vita finisce il 4 marzo 1861 nel naufragio della nave che lo porta a Napoli e le sue confessioni di un italiano restano così il diario aperto di una generazione senza approdo. È la forza del destino, medita Giuseppe Verdi, guardando al collettivo cammino percorso in quest'anno e battendo già il tempo dell'opera che inaugurerà la Scala nel 1862. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luigi Mascilli Migliorini, L'anno tranquillo dell'unità, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 ore in edicola oggi. A volte un buon romanzo si vede dalle prime righe e molti libri sono passati alla storia proprio grazie alla frase iniziale che tutti ricordano. Ora l'American Book Review ha scelto i 100 migliori incipit della letteratura mondiale, una classifica che però non trova tutti d'accordo. Forse un buon inizio è quello che potrebbe benissimo essere la fine. Non sempre però nell'incipit c'è tutto. A volte per funzionare un incipit deve fare esattamente l'opposto, non dire cioè assolutamente nulla, o folgorare, o magari scolpire una pura e semplice presentazione del personaggio principale, un nome. Chiamatemi Ismaele è l'incipit di Moby Dick di Melville, che ha vinto la selezione dell'American Book Review. Il bimestrale letterario americano ha appena compilato una lista dei 100 migliori incipit di romanzo della storia della letteratura, ed è un gioco non solo scoprire chi c'è e chi non c'è, o constatare l'ovvio carattere anglocentrico della lista, ma anche compilare la propria, o semplicemente leggerla, la lista. American Book Review mette sul podio anche l'attacco di Orgoglio e Pregiudizio, della Austen, e quello di L'arcobaleno della gravità, di Thomas Pynchon. Un grido s'avvicina, attraversando il cielo. Subito dopo c'è l'incipit di Cent'anni di solitudine, di García Márquez, coi ricordi del colonnello Aureliano Buendía. Certo, tutto il Sud America avrebbe meritato altra attenzione, e invece latitano Borges, Cortázar, Sabato, Mutis o il brasiliano Guimarães Rosa. È naturale citare l'attacco di Anna Karenina. Tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, ma ogni famiglia è infelice a modo suo. Ma quello stesso attacco fa venire in mente, per dire, certi classici della contemporaneità, per esempio Le correzioni di Franzen. Anche qui, niente. È banale non farsi mancare la citazione di Finnegan's Wake, di Joyce, che fa sempre cool. Fluido fiume, passato Eva e Adamo, da spiaggia sinuosa a baia biancheggiante, ci conduce con un più commodus vicus di ricircolo di nuovo a Outcastle e dintorni. Ma lo sarebbe stato meno scegliere qualche autore vivente, eppure a modo suo già classico. Mettere Mark Twain con Le avventure di Huckleberry Finn e Kafka Il processo fuori dei 10 è come in un'antologia delle più grandi squadre di calcio di sempre non citare l'Olanda di Cruyff. L'unico italiano in questa lista è Calvino. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore, di Italo Calvino. Rilassati, raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. E meno male che c'è. Ad altre letterature, vedi l'est europeo, è andata peggio. È opinabile Hemingway, Il vecchio e il mare, 48esimo, e Gatsby, 68esimo, è una vera ingiustizia. Niente di De Lillo, niente di Roth, niente di Doctorow, incredibile. È un gioco, si diceva, una lista, e ognuno starà decretando il suo vincitore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Jacopo Iacoboni, Chi ben comincia è a metà del romanzo, dalla stampa del 5 ottobre.